quando il mio amore tornerà da me nel cielo. Una stella splenderà se spenta da quando il mio sogno è svanito, da quando il mio amore fuggì da me. Quando il mio amore tornerà da me nel mare, una perla nascerà. Son tutte le che ha pianto la stella nel vedere, solo è triste il mio cuore. Quando il mio amore nell'aria un violino suonerà, la musica dolce scenderà nel mio cuore ed il tempo si fermerà.